Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Ci sono realtà e settori in cui l'Italia vanta eccellenze poco raccontate. Oggi scopriremo una scuola di computer grafica che da 10 anni forma talenti presenti nei titoli di coda di molti film d'animazione, da Big Hero 6 a Frozen, solo per citare gli ultimi della lista. Si trova in un contesto di innovazione unico al mondo che, tra le altre cose, insegna a sognare in grande fin da piccoli. E poi lo sapete che 6 prodotti di make-up su 10 nel mondo sono prodotti in Italia e che i prodotti cosmetici maschili valgono ormai un terzo del mercato. Nello scenario di Expo 2015 torniamo a parlare di cibo del futuro. Una ricerca svela le principali paure e aspettative dei consumatori, che chiedono soprattutto, e ci sembra un bel messaggio da sottolineare, cibo buono e sicuro per tutti. Lo conoscete, l'altro festival di Cannes, quello dedicato alla pubblicità, è il Cannes Lions Festival, il festival internazionale della creatività, la più prestigiosa manifestazione a livello mondiale dedicata alla comunicazione. Ieri si è conclusa l'edizione 2015. Attraverso le campagne più citate e premiate cercheremo di individuare i trend che detteranno legge nella comunicazione dei prossimi mesi. Signor Lightyear, mi scusi, sono curioso. Che cosa fa uno Space Ranger esattamente? Lui non è uno Space Ranger! Non combatti i cattivi, non spara laser e tantomeno vola! Scusa, permetti? Oh, un'apertura d'ali notevole! Sono ali di plastica, non può volare! Sono in lega teriglio carbonica e si dà il caso che io possa volare. No, non puoi. Io posso. Non puoi. Posso. Non puoi, non puoi, non puoi! Potrei svolazzare per questa stanza con gli occhi chiusi. Dimostralo. L'hai voluto tu. Fate largo, ragazzi. Verso l'infinito e oltre! Story impossibile non riconoscerlo, è stato il primo film d'animazione completamente sviluppato in computer grafica. Realizzato dalla Pixar e distribuito dalla Walt Disney nel 1995, nel 2007 l'American Film Institute l'ha inserito tra i 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi. Ha cambiato per sempre il modo di fare animazione anche dal punto di vista del racconto, della storia, mai prima di allora così appassionante per i bambini e divertente per gli adulti, ricca di riferimenti su più livelli. Ebbene, sapete che nella computer grafica l'Italia vanta una scuola di eccellenza, sforna talenti che lavorano nel 99% dei film americani con effetti speciali. Questa scuola si chiama Big Rock, si trova a Roncade, in provincia di Treviso, in un'ex cascina immersa nel verde ai margini della laguna di Venezia. Una scuola in cui accanto alle lezioni di elaborazione digitale ci sono quelle di fotografia, recitazione, software, la pratica sportiva basata sulle tattiche militari, una scuola in cui gli studenti a metà corso vengono spediti negli Stati Uniti per un viaggio in mezzo al deserto. L'abbiamo visitata e ci siamo fatti conquistare dalla visione del suo fondatore Marco Savini, che definisce Big Rock le elementari della computer grafica. Perché noi partiamo da zero e il nostro compito non è specializzarci in un particolare campo, ma è spiegare ai ragazzi come fare computer grafica nelle prime fasi, quindi spiegargli come si passa da zero a faccio computer grafica e poi farla per tutto il resto della vita. Dopo questi 6 mesi da noi, quello che potranno fare è cercarsi un posto in azienda e lavorare, quindi è la cosa che si fa all'elementari, entri dall'asilo sostanzialmente e all'elementari decidi se sarai un astronauta o un matematico. In pochi lo sanno, molti ex Big Rockers lavorano alla Pixar, alla DreamWorks, insomma nelle realtà di primo piano per quanto riguarda questo settore, e avete tra l'altro voi una percentuale di job placement elevatissima. Sì, diciamo che quando vengono da noi hanno già una forte passione, perché noi siamo in mezzo al niente, costiamo tutto l'investimento, è importante convincere i propri genitori a mandare il suo figlio nel niente a studiare per 6 mesi e spendendo 5.000 euro, insomma è una cosa abbastanza forte. Poi quando escono, già che sono motivati, cercano lavoro nelle varie aziende, anche spesso attraverso gli ex big lockers che oramai sono più o meno in tutte le realtà nazionali e internazionali, per cui diventa quasi facile trovare lavoro se sei bravo. E noi abbiamo una pagina che si chiama bigrock.it/cinema, dove ogni volta che esce un film mettiamo a locandina il nome del corsista che ha lavorato al film, e a oggi sono tutti più o meno, il 99,9% dei film ha un nostro ex corsista nei titoli di coda, quindi è fico. Sogni il cinema da quando sei piccolo, sai che sei nato per disegnare storie. Benvenuto a Big Rock, costruirai storie di personaggi incredibili che vivranno dalle tue mani. Come camminano, come ridono, come amano. C'è un gender gap nella computer grafica, è una cosa molto maschile. In realtà abbiamo fatto un giro tra le classi e abbiamo visto tante ragazze anche. Sì, adesso siamo metà e metà più o meno, cioè che adesso l'arte è arte, per cui l'arte può essere sia maschile che femminile, non è più una cosa estremamente tecnica nella quale matematica uguale uomo. In realtà oggi è talmente diretto verso l'arte che sia uomini che donne hanno le stesse probabilità di riuscire. È chiaro che le donne magari prediligono, abbiamo visto, materie più meno tecniche e più artistiche, e gli uomini magari si indirizzano verso quelle un po' più tecniche, però è una cosa che non ha un riscontro vero, cioè nel senso che a volte capitano master in cui le donne sono artiste e gli uomini sono, e altri invece in cui è il contrario, quindi è difficile fare una casistica. C'è in qualche modo, viene riconosciuto un Italian way di approcciarsi alla computer grafica? C'è un modo tutto italiano? Beh, l'arte è nata in Italia, punto. Quindi gli italiani vengono rapiti all'estero perché nel DNA abbiamo questa cosa che per noi banalmente basta guardare l'America, dove 500 anni di casa è un monumento da recintare o roba del genere. In Italia probabilmente 500 anni è casa di mio nonno, nel senso che mio nonno ha 500 anni di casa. Noi abbiamo il Colosseo che ha 2000 anni, Roma, abbiamo un sacco di cose che hanno fatto la storia dell'arte in tutto il mondo, per cui noi anche non facendo arte ci siamo immersi dalla mattina alla sera, che è una cosa che gli altri popoli, la maggior parte dei popoli, non ha. Il problema nostro è che non abbiamo la formazione adeguata per farci riconoscere all'estero come professionali. Noi sembriamo ancora un po' arraffazzonati, mettiamola così. Però quando poi un italiano si specializza, trova le vie per specializzarsi, all'estero è come se fosse oro, nel senso che all'estero l'italiano nel campo dell'arte è assolutamente oro colato. Per quello che troviamo spesso lavoro quasi molto facilmente rispetto agli altri, che magari sono più tecnici, più focalizzati solo su un piccolo argomento, invece l'italiano riesce a spaziare un po' più in là. Però dobbiamo scrollarci addosso questa cosa, noi ci stiamo lavorando. Il vostro master è un'immersione nel mondo digitale, ovviamente, ma non solo, perché si fanno modellini con le mani e si fanno corsi di recitazione anche. Perché? Perché per fare arte noi abbiamo bypassato il lato tecnico, che lo diamo per scontato, nel senso che noi insegniamo il lato tecnico, ma per farlo basta prendere un manuale e leggersi le istruzioni, e non è difficile imparare un software. I software in genere li fanno per essere venduti, non per essere usati da 5-6 persone super geni in tutto il mondo, no? E il problema è saper cosa disegnare, cosa dire, quella roba lì è difficile, e riguarda tutto il lato artistico che è stato sviluppato in maniera accademica dalla danza, dall'arte, dalla recitazione, da un sacco di altre cose che sono quelle che cerchiamo di insegnare. Quindi diamo tutti gli spunti facendogli fare il collegamento tra il lato tecnico e il lato artistico, e una volta che l'hanno capita poi per tutta la vita continueranno a studiare le materie accademiche, continueranno a prendere dalla realtà e portarlo nel digitale. Infatti noi apprezziamo i cartoni animati perché sembrano veri, perché si muovono bene, perché recitano bene, perché hanno dei bei disegni, e queste cose qua sono pittura, sono recitazione, sono tutte queste materie che hanno centinaia di anni di storia in Italia, per cui quello che facciamo noi è solo spiegargli che invece che usare la matita usi il mouse, però poi la ciucca è sempre lo stesso, devi sempre saper recitare se vuoi fare l'animatore o fare lo scultore se vuoi fare il modellatore e così via. Big Rock fa parte del network di H-Farm, a due passi dalla sede, primo acceleratore italiano di start-up. Nata nel 2005 e cresciuta fino a diventare un vero e proprio villaggio dell'innovazione. L'occasione per noi per visitarla e scoprire innanzitutto che si inizia a sognare e progettare l'innovazione fin da piccoli. Durante l'estate H-Farm infatti promuove per i bambini i Digital Native Summer Camp. La responsabile Giulia Francesco. Rankin. Noi abbiamo ideato dei percorsi formativi, 8 nello specifico quest'anno, che hanno l'obiettivo proprio di insegnare ai ragazzi cosa c'è un po' dietro le quinte del digitale. E il riscontro che avete sui bambini qual è? Allora, i ragazzi sono assolutamente contentissimi di partecipare a questi camp e sono anche i primi a proporci nuove strade da percorrere. La cosa bella è che si crea uno scambio con loro, nel senso che noi chiaramente diamo una serie di contenuti, degli stimoli, ma a loro volta ci rispondono con nuovi stimoli e nuove visioni di come approcciano questo mondo, e quindi è assolutamente interessante e anche divertente anche per noi. Quindi è un camp anche per voi? È un camp per tutti, è sicuramente un'esperienza in divenire che ogni anno si arricchisce e ci permette di creare una nuova offerta poi per l'anno successivo. Ci stanno facendo imparare tante cose nuove. Mi è molto piaciuto. Non so gli altri se sanno più di me, però io ho imparato tantissimo e dal primo giorno. Stiamo imparando ad usare Illustrator, che è un programma di disegno. Desideravo venire qui e spero di imparare qualcosa di nuovo sui computer e soprattutto di divertirmi. Io è il terzo anno che vengo qui e ogni anno mi piace sempre di più. Non me l'aspettavo così bello. In questo camp ci sono venuto io, l'ho trovato su internet per caso e volevo subito venire qui perché mi sembrava esaltante. E poi spero di imparare molte cose nuove, come stiamo facendo adesso sulla grafica e graphic designers. Io adoro l'arte e questa è una specie di arte, e anche la tecnologia, perché sono abbastanza bravo con i computer, quindi spero proprio di lavorare con questi apparecchi. Quanto è importante in questo momento per chi fa innovazione come voi allargare alle fasce d'età i più piccoli, integrare anche la formazione scolastica tradizionale? Allora, sicuramente è importantissimo, anche perché appunto oggi la scuola non è in grado di dare un'offerta importante in questo senso. Invece i ragazzi hanno sete di queste informazioni perché appunto sono abituati a interagire con questi strumenti e questi device. H-Farm ha appena lanciato la nuova call di H-Camp, il programma di accelerazione giunto alla sesta edizione, alla ricerca di nuovi start-up non solo italiani. Timo Connell è il direttore dei programmi di accelerazione. L'ultimo gruppo, c'erano una selezione di 8 team su più di 400 applications. Più o meno ogni programma che facciamo cresce, così abbiamo, noi aspettiamo sicuramente, probabilmente fino a 500 applications di tutta Europa. Ci sono settori su cui si concentra di più lo spirito di innovazione? Certo, no. Noi abbiamo una focus molto su quelle che noi chiamiamo le Made in Italy, così noi guardiamo molto l'innovazione verso il mondo di food, il mondo di fashion, il mondo di design, ma anche legato a spazi come il retail. Noi vediamo, per esempio, abbiamo molte aziende che sono leader mondiali nel mondo retail che stanno cercando di capire quali sono nuove innovazioni che può aiutare loro a rimanere come leader in questo settore. L'esperienza stesso, proprio l'esperienza di utente, del consumatore che entra in un negozio, che oggi come oggi va al negozio con certe aspettative, ma è la stessa aspettativa a casa. Vogliono trovare le stesse sensazioni sul telefono, che su iPad, che su computer. Così un negozio non può finire più con la porta di uscita o l'ingresso, ma deve andare molto oltre. Voi siete il sogno di molti start-upper. Ricordiamo che cosa offrite alle aziende, alle start-up che accelerate. Diciamo che offriamo un programma molto completo, no? Anzi, noi abbiamo iniziato a chiamare un programma all inclusive adesso, perché va oltre le standard. Ovviamente abbiamo un network fantastico con i mentorship molto importante e tutti i servizi standard di un accelerator, ma andiamo oltre con anche l'ospitalità. Le persone vivono qua, mangiano qua tutti insieme, e così c'è un'opportunità di veramente staccare di tutti i problemi normali di una vita, capire cosa mangio stasera, dove vado, e focalizzare a portare a casa il loro risultato, che è un business o un prodotto mirato sugli obiettivi del gruppo. Un'ultima riflessione, quest'anno sono 10 anni il vostro programma. Che cosa è cambiato in questi 10 anni? È cambiato tanto, diciamo che non parliamo anche di 10 anni fa, parliamo solo di 2 anni fa. Se un ragazzo andava dai genitori, dai nonni, dice che vuoi fare un startup, prima deve tradurre cosa significa. significa. Oggi è diventato una scelta anche di vita abbastanza conosciuta, ma anche visto nel senso positivo, che uno vuole mettersi in proprio e sfidare il cambiamento e l'innovazione attraverso questo mondo. Questo aiuta molto noi, perché significa che i ragazzi vengono qua con molto entusiasmo, ma anche con un'idea abbastanza chiara di cosa significa fare startup. 8 consumatori su 10 si dicono favorevoli al consumo di cibo alternativo, dalle alghe agli insetti. Tra soli 5 anni il 20% delle vendite di beni di largo consumo sarà online. Restate con noi, perché tra poco torniamo a parlare di cibo e futuro, subito dopo la pausa. Essere e avere. Mi chiamo Flint Lockwood e ho sempre cercato di inventare qualcosa di incredibile. Un'auto volante! Perciò, quando la mia città si è trovata nei guai, ho capito che era l'occasione giusta per mostrare a tutti la mia genialità. Trasmutazione dell'acqua in cibo. Per la prima volta nella mia vita, tutti amano una cosa che ho fatto io. Posso avere le calde? Carne! Vado pazza per la gelatina! Mamma mia! La macchina decide da sola! Presto, sarete nell'epicentro di una tempesta perfetta di cibo! Per 7 italiani su 10 è la manipolazione la principale paura sul cibo, e 6 consumatori su 10 si aspettano che siano i cittadini nel futuro a decidere le politiche sul cibo. Lo rivela una ricerca effettuata da Doxa in 8 paesi per Coop, nella riflessione che la realtà leader nella grande distribuzione porta avanti nel contesto di Expo 2015, dove, ve lo abbiamo raccontato non molto tempo fa, Coop ha realizzato il Future Food District, il padiglione sul cibo del futuro. Ci siamo fatti raccontare paure e aspettative dei consumatori da Vilma Scarpino, amministratore delegato di Doxa. Abbiamo cercato di capire qual era lo scenario in cui andavamo ad analizzare le aspettative nei confronti del cibo del futuro. Oggi, di fatto, quello che viene fuori è che, indipendentemente dal paese in cui si sta, in cui si vive, ci sono dei valori trasversali che vengono attribuiti al cibo. Cioè, il cibo è sicuramente un nutrimento dell'anima e del fisico, quindi, stante questo, il futuro del cibo è visto in maniera un po' diversa, e cioè di fatto si andrà sempre più, in maniera sempre più forte, verso un cibo che perderà un po' di questi valori emotivi che sono storicamente legati al suo consumo. Si andrà verso un cibo sicuramente più sicuro, perché la tecnologia avrà aiutato a neutralizzare alcuni aspetti negativi. Si andrà verso un cibo che di per sé sarà ben bilanciato rispetto al fabbisogno di ciascuno di noi. Sarà un cibo che sarà un po' omogeneizzato anche dal punto di vista del gusto. Questo da un punto di vista sia positivo che negativo. Voi avete indagato anche le principali paure legate, sì, al cibo. Manipolazione del cibo, inquinamento ambientale che potrebbe portare alla carenza di cibo. Sicuramente la paura è anche quella di avere un cibo costoso, non per tutti, meno democratico. Perché? Perché di fatto il cibo di qualità si ha timore che possano ambire soltanto alcune parti delle popolazioni, quindi il timore del cibo costoso c'è. Diciamo che in maniera trasversale rispetto ai paesi che noi abbiamo intervistato, il concetto della necessità di avere disponibilità di cibo buono e sicuro per tutti, oppure di garantire la salute per tutti i cittadini del mondo e di ridurre contemporaneamente lo spreco affinché si possa avere cibo per tutti, è sicuramente un obiettivo che le istituzioni si devono porre in maniera seria. Un'ultima riflessione sull'apertura al cibo alternativo cosiddetto. Sì, anche noi siamo stati un po' sorpresi da questo, soprattutto rispetto a alcuni cibi molto particolari. Gli insetti ci fanno sorridere, ma ci fa sorridere anche il cibo stampato in 3D. È che le persone sono più consapevoli di quanto noi non immaginiamo, sono consapevoli di ciò che potrà accadere in futuro. C'è sicuramente grande apertura dovuta anche al fatto che ormai già in molti paesi si consumano cibi che non sono originari del proprio paese, quindi si è già abituati ad una variegatezza e stranezza, tra virgolette, di cibi che vengono importati da altri paesi, quindi perché no? Grande apertura, soprattutto per esempio sulle alghe. Le alghe, tutto sommato, con la diffusione dei cibi asiatici, forse è la cosa più facile da dire. Il tema dell'accessibilità del cibo, ci ha detto il presidente di Coop Italia Marco Pedroni, sarà sempre di più al centro di tutte le discussioni sul cibo. Questa è un po' la visione anche di Coop, che il cibo buono e sicuro, un cibo di qualità, deve essere accessibile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista delle informazioni, delle possibilità di utilizzo. Bisogna dare più potere alle persone, ai cittadini, ai consumatori sul cibo. Pensiamo che ci debba essere un lavoro congiunto, non solo delle imprese ovviamente, ma anche delle imprese, sia di produzione che di distribuzione, che del mondo agricolo, perché invece ci sia questo tema dell'accesso molto messo al centro, dell'accesso di tutti messo al centro, diciamo così, delle cose che si dovranno fare oggi e domani. E che effetto fa? Lei quanti anni mi darebbe? Non saprei. Andiamo, senza cercare di adularmi. 38. 28. 3. 23. Io ho 71 anni suonati. Ecco che effetto fa. Al segno, va bene? Ci vuol passione, molta pazienza, sciroppo di lampone e un filo d'incoscienza. Si fa così, rossetto e cioccolato, che non mangiarli sarebbe un peccato. Vale quasi 10 miliardi di euro il settore cosmetico in Italia. Da tempo resiste alla crisi, il consumo interno presenta ancora il segno meno, ma grazie alle esportazioni il settore è in crescita e fa parte a pieno titolo delle eccellenze del Made in Italy. Basti pensare che 6 prodotti di make up su 10 sul mercato mondiale vengono realizzati in Italia. Sono dati che ricaviamo dal Beauty Report 2015 presentato da Cosmetica Italia, l'associazione che riunisce le imprese del settore, che quest'anno ha declinato il tema della cosmesi nel contesto e nello scenario di Expo 2015. Sentiamo Fabio Rossello di Cosmetica Italia. Ma le considerazioni continuano a essere quelle di un settore di eccellenza dell'industria italiana. La cosmetica, che spesso non prendiamo in considerazione da un punto di vista della sua valenza, del suo valore economico, è invece un qualcosa di decisamente significativo anche per il nostro paese. Questi quasi 10 miliardi, insomma, rappresentano, secondo me, un valore superiore ad altri settori come le scarpe o come magari il vino. C'è un dato significativo che è poco conosciuto: il 60% del make-up mondiale è prodotto in Italia. Vuol dire che la nostra capacità, la nostra attrattività, la qualità del nostro prodotto italiano è decisamente significativa. La vediamo anche in altri settori che non sono solo quelli della cosmetica. Ci sono stilisti che non cito per ragioni, non cito mai in brand di nessun tipo, però che magari non sono italiani e fanno quasi tutto made in Italy, producono in Italia e si avvalgono del valore che il made in Italy dà, e questo credo sia un fatto decisamente importante. Cannes Lions is about creativity. You know, the most important creative festival in the world. An opportunity for the creative community. Here I am sharing the stage with you. Right here in Cannes, right now, we have enough people with sensibility and connections. Cambiamo argomento, parliamo del Festival di Cannes, ma non quello del cinema, quello della pubblicità, meglio della creatività, nel quale si assegnano i Cannes Lions, di fatto gli Oscar della creatività mondiale. Abbiamo chiesto al Managing Director di un'importante agenzia media, PhD Italia, di farci da inviato speciale. Lui si è prestato, lo ringraziamo. Buon pomeriggio a Vittorio Bucci. Buon pomeriggio a tutti. Ciao Maria Luisa. Ciao Vittorio. vittorie. Allora, al festival vengono premiate ogni anno molte delle campagne di maggior successo, quelle che abbiamo visto, che abbiamo cliccato, che abbiamo condiviso. Ecco, al di là poi dei singoli vincitori in tutte le categorie, iniziamo a citare un po' di quelle più apprezzate. Devo dire che ci sono senza dubbio due categorie su tutte che sono quelle più rilevanti per i consumatori finali da un lato, e più rilevanti per le istituzioni e per la politica, per il messaggio che lanciano. E su tutte, una campagna fatta in Spagna, che forse ricorderete, la campagna in cui a seguito della legge passata il 26 marzo, in cui il Senato spagnolo ha approvato in via definitiva una serie di limitazioni alle manifestazioni, è nato un movimento di protesta che si è concluso con la manifestazione di ologrammi davanti al Parlamento. Questa campagna è stata premiata a Cannes come appunto una delle più importanti in campo sociale. Viceversa, c'è un'attività che sfrutta uno dei macro trend di questo periodo e settore, ovvero il fitness, la voglia che tutti noi abbiamo di stare in salute, di tracciare qualsiasi nostro passo per capire come possiamo ottimizzare i nostri movimenti e il nostro stato di salute totale, appunto. E è stato utilizzato questo trend da un brand americano di Kmart, Joe Boxer, che vende appunto diciamo abbigliamento intimo, e che ha creato un'applicazione e un braccialetto che consente di leggere l'inattività, quindi è un inactivity tracker piuttosto che rispetto al Fitbit o al Jawbone, uno strumento per tracciare quanto invece sto performando a livello fisico. Una campagna non convenzionale molto molto interessante, che ha riscosso tanto successo. Mi viene in mente allo stesso modo una delle campagne quest'anno, insomma, che sono state molto cliccate, il catalogo IKEA Book, insomma, che faceva il verso agli spot Apple. Sì, assolutamente. Ce ne sono diverse di campagne simpatiche di questo tipo. Ci sono campagne appunto che lanciano dei messaggi invece di grande rispetto e che alimentano l'educazione civica. Una campagna promossa in Gran Bretagna ha sostanzialmente riprodotto una delle frasi con cui si introduce un pregiudizio razzista, quindi "I'm not racist but", creando un filmato vero e proprio in cui appunto la protagonista, dopo aver detto questa frase, iniziava a dire una serie di cose riconosciute come razziste, e l'utente aveva la possibilità di utilizzare un pulsante dislike che sostanzialmente tagliava il filmato di alcuni secondi eliminando la frase che non piaceva all'utente. Tutto ciò portava sostanzialmente, dopo un certo numero di dislike, se non vado errato 25.000 dislike, ad avere soltanto un filmato che riproduceva la frase "I'm not racist". Quindi diciamo che la comunicazione sociale è ancora un evento che comunque si è sviluppato tanto ed è caratterizzato dalla presenza di big player tecnologici che raccontano all'Europa quello che hanno raccontato magari qualche settimana prima negli Stati Uniti a proposito di prodotti, evoluzioni tecnologiche, quindi Facebook, Google, Twitter e così via. Pur essendo molto molto focalizzato sull'innovazione, pone ancora tanta attenzione al modo classico di fare comunicazione, no? Quello che tocca alle nostre leve più profonde, la nostra parte emotiva. Grazie a Vittorio Bucci per essere stato con noi e grazie per averci fatto da inviato. Grazie a voi. E grazie anche in regia a Valeria Bernardi. Oggi si chiude la stagione 2014-2015 di Essere Avere, non dalla prossima settimana perché ci sarà la programmazione speciale da Expo 2015, ma da quella dopo vi terremo compagnia come sempre con il meglio della nostra produzione, la selezione, l'antologia estiva delle puntate dei mesi scorsi. Voi continuate a mandarci spunti, idee e riflessioni sui nuovi temi che approfondiremo da settembre. Io comunque resto al microfono anche per le prossime domeniche, quelle di luglio e di agosto. Non mancate come sempre alle 15. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.